Per errore in questo spazio senza stelle non si incontrano guide, non si incontrano bestie. La luna non porta fortuna, non c'è niente da imparare. I peccatori continuano a peccare e i giusti a giustificare il male. La stanza è un quadro stretto, una vignetta, sotto un quarto di letto appena sporto un umido ripieno, una porzione di qualcos'altro, non del muro bianco, o di un volume lì sugli scaffali astrati ingombri fin sopra il soffitto, sul povero spianato pavimento. Niente di così dritto e levigato e asciutto, ma qualcosa fuori quadro, qualcosa che stropiccia le lenzuola. Lenzuola. Sono così ruvide e molli di sudore, come un foglio di carta d'olio ripiegato intorno al macinato. E sotto, e dentro, un fianco, sbalzato. E fuori, magari una mano. La mano di quell'altro che non quadra, non qui dove la camera si chiude, sopra un quarto di letto di lenzuola, sudare di stagione. Della bella stagione afosa, umida mentre albeggia alla finestra, sui rami degli alberi, immobili e i latrati, e una civetta, e persino lo scherno di una allodola, e infine la sordina dello schermo, unica luce a lampi in tutto il quadro, che fa da vita al letto, al pavimento, e grigi gli scaffali nella polvere. E risalire ancora ristagnato il fumo denso delle sigarette, spente da un'ora e schiacciate con cura l'una sull'altra, come un'ecatombe del tempo senza sogni della notte, nell'urna bianca sopra lo scrittoio, massiccio e nero come le sue sedie, una di qua, piena di carte e libri, l'altra di fronte, vuota contro il muro, perché avverta la nuca il suo rigore, e le spalle il confine che contiene, e il rigido la testa, lo squadrato, e il tremito dei passi sulle scale, su e giù, avanti, indietro, shh, sentendoli svanire a poco, oltre la porta, negli scatti rabbiosi delle chiavi, o nel secco rintocco del portone. E ora che è deserta, finalmente, la sedia come morta asciuga lenta la striscia di sudore di una coscia e inquadra il letto, addossato all'estremo, di faccia contro l'altro muro, dove poi corrono al soffitto gli scaffali e lì dentro, e sopra, sotto il cumulo inerte degli oggetti, appena sporto, incassato per bene nel suo letto, un altro, invece, un altro che nemmeno si vede poi del tutto, solo un braccio che sfugge alle lenzuola, le lenzuola che tengono raccolto il suo sudore e la testa bagnata sul guanciale, occhiali storti tra il naso e le orecchie, con i cristalli accesi dallo schermo che fa rossi riflessi alle pareti, e invece così azzurri dentro il sonno che si ripiega come una vignetta. Shh. Di qualcuno che dorme. Un tempo la carne, variando le mosse, faceva scommesse. Ora si striglia confusa in orda, insinuante, alla rinfusa, a pezzo a pezzo, grida ogni carne di che parte è, e che valore, e quanto di buono resta ancora da scaldare. La scala senza smocchi di scaffali, grida la folla di farla fuori, quella carne che salata riveste il tuo corpo celeste. Ha smesso poi la carne di starti intorno. Piegato da un lato del collo a capo riverso, ha smesso di essere caldo, il caldo del corpo. Questa carne che sola si ama, al gancio di una cella resta appesa senza fiato, tra la folla. Questa carne che da sola esala l'ultima parola e sospira, quando è rossa la sera, per l'ultima preghiera. Tra la mia e la tua io smetto la carne. Tra la mia e la tua io smetto la carne. Thank you. Prima di essere santi, ci piace la materia, che è densa. Risucchio di luce nel buco in cui si cade. Materia che ruba la luce per cui siamo vivi. Che tira come un metallo al magnete. Il punto, lo sappiamo, in cui il tempo è il suo movimento capovolto. Anche fuori fuoco è vista, l'occhio cisposo genera più acqua, liquido, e anche se si attacca cerca di più il punto di fuga. Dove qualcosa manca, qualcosa si vuole con più forza, con la fame di ritrovare la ragione aperta. Dove sistemare chi sta sopra e sotto l'orizzonte, quelli che non sono ancora e quelli che non sono più. L'altro chiuso nella sua linea.